Noi siamo qui dal giorno 15, qui a Baghdad, abbiamo oltre una tonnellata di materiale per gli ospedali di Fallujah e di Karbala. Mi trovo in questo momento all'interno della Mezzaluna Rossa per proprio prendere gli accordi e partire domani sia per Fallujah che per Karbala. Questa mattina c'è stato questo attentato. Noi pensiamo di aver incrociato la colonna di macchine presidenziali perché c'era un grosso checkpoint ed era seguita e preceduta da alcune macchine blindate americane. Questo non, ovviamente non sono certo sicuro di averli incrociati mentre andavo al Palestina. La situazione è quella che è molto molto molto pesante, l'aria qui a Baghdad è molto, bisogna stare molto attenti nel girare, così come è difficile fermarsi per la strada e usare il telefonino. In quell'articolo che vi ho scritto e in cui sono stato invitato a passare una serata in un matrimonio, è stato bellissimo perché al centro di una strada, in una zona altrettanto bella, con tutta la gente che a un certo momento si sono messi tutti a sparare come è normale uso e qui è costume durante i matrimoni, ma la cosa straordinaria, senza fanatismo, senza cattiveria, senza nemmeno l'arroganza, c'era l'orchestra che suonava e tutta la musica, tutta con degli appelli che venivano dati ogni 5 minuti, tutta la musica, tutta la serata per questi sposi era dedicata alla città martire di Fallujah e a tutti i bambini e alle donne che sono stati trucidati durante i bombardamenti. È una sensazione, un'emozione nuova, particolare, anche perché puoi vedere e scoprire l'altra faccia anche della resistenza, quella fatta di gente normale che non usa le macchine bomba, che non usa le armi, ma usa anche l'allegria per far sentire la voglia di pace e di rivivere in questa città, in questo momento così difficile da vivere. Ieri ho assistito ieri mattina all'esame degli studenti della facoltà di lingue in italiano presso l'università, l'esame finale di fine anno, e ad alcuni professori io chiedevo, questo la dice lunga sulla tesi che se ce ne andiamo succede la guerra civile. Io credo che sia la guerra civile è stata tentata, e queste tensioni sono state create in parte ad arte, in parte per irresponsabilità e incapacità culturale e politica di capire questo mondo arabo e in particolare questa popolazione irachena. Non credo che ci possa essere o ci siano questioni di scontri civili, al contrario, e infatti questo professore mi diceva, ma se uscissero probabilmente piccoli problemi iniziali, ma potremmo ripartire da capo. Saddam non c'è più e quindi potremmo ripartire con delle sicurezze maggiori, con delle certezze maggiori. E questo è il sentimento quasi generale. Bisogna poi andare a cercare con l'umicino qualcuno che ti possa dire va bene così come stanno le cose, ma bisogna cercare veramente con l'umicino. E noi stiamo qui come associazione, a differenza delle centinaia di ONG che si sono presentate durante la guerra alla frontiera giordana per dividere la grande torta degli aiuti, noi siamo qui proprio per testimoniare questa cosa, non solo per aiutare questo popolo, ma anche per dire semplicemente guardate, il volontariato è un'altra cosa e non si fa con i Kalashnikov.